Allora, un esempio che vale per tutti, in Giappone per esempio le prime segnalazioni di scie chimiche risalgono a un mese e mezzo, 2 mesi fa, no? Cioè prima da allora, per esempio in Giappone, il fenomeno della condensazione non esisteva. Quindi sappiamo che adesso anche in Giappone avranno fatto qualche accordo per poter coprire anche l'area giapponese. Poi sappiamo che per esempio la Cina fa sperimentazioni di questo tipo da diversi anni. C'è una differenza, che la Cina comunista dichiara a chiare lettere che fa sperimentazioni climatiche, delle quali adesso bisogna anche parlare, è vero, però qui non succede altrettanto. Cioè qui il fatto che la modificazione climatica sia un fatto reale viene estremamente negato da tutti. Quindi si dice che la modificazione climatica non è possibile. Invece i cinesi possono impedire o generare la pioggia a piacimento. L'hanno anche dichiarato ufficialmente durante le ultime Olimpiadi. Hanno detto che si sarebbero dati da fare con razzi e aerei per impedire le precipitazioni nei giorni delle gare in quanto riguarda l'argomento di cui. I russi altrettanto sono padroni di questa tecnologia, tanto è vero che un paio di anni fa era uscito un piccolo servizio un po', diciamo, rabberciato, fatto male, perché poi parlava di nitrato d'argento, però il nitrato d'argento serve a creare la pioggia e non a impedirla, nella quale si dichiarava che Putin durante una manifestazione in piazza sarebbe cautelato per impedire le precipitazioni e per questo sarebbero intervenuti diversi aerei. Chiaro, se lo fanno i russi, lo fanno tutti, no? Se lo fanno i cinesi, lo fanno gli americani. Solo che gli americani negano di essere di essere attivi in questo ambito. E invece gli americani hanno un documento che è stato redatto tra 1995 e 1996, che si chiama Possedere il clima entro il 2025, il clima come fattore di moltiplicazione di potere militare, qualcosa del genere. E in questo documento, un faltone di diverse pagine, delle quali solo alcune sono accessibili perché la gran parte sono sempre state, si parla chiaramente di dominazione del clima, perché dominare il clima è anche un'arma, nel senso che se io impongo la siccità, vediamo per esempio la Puglia è come per quanto riguarda l'Italia, ma per esempio in California non piove da 4 anni, la California è siccitosa da morire. Sydney, l'Australia, hanno pensato bene di utilizzare le acque reflue come acqua potabile una volta ripotabilizzate, perché anche a Sydney e nella gran parte dell'Australia, anche questa zona isolata, non piove più. La maggior parte, però, comunque bisogna capire che la maggior parte di queste operazioni non vengono fatte dagli americani cattivi. Bisogna capire che qui c'è un potere sovranazionale che gestisce le operazioni a livello quasi globale. Sappiamo, per esempio, da testimonianze dirette di persone che vivono in Venezuela, che da alcuni mesi le scie chimiche sono comparse anche lì. Lì c'è Chavez, che notoriamente è contro gli americani. Però come mai permette il sorvolo del proprio territorio proprio da parte di aerei che sono comunque della NATO e comunque sono gestiti anche dagli americani? Allora qui si capisce, come dicevo all'inizio, che non è una questione di politica o di partiti o di posizioni, ma i governanti in realtà sono delle marionette che vengono a loro volta gestite da poteri più forti, sovranazionali. Alcuni paesi non sono ancora coperti da queste operazioni, sono alcuni paesi dell'est che ancora non sono all'interno dell'ambito della Unione Europea o della NATO. Sappiamo che per esempio il Nord Africa è interessato dalle irrorazioni, tranne la Libia. Spiegola. Allora questa qua ha eliminato tutto questo. Questa è la domanda. Allora, qui noi ci arriviamo alla fine. D'altronde questa è una domanda logica, è chiaro. Cosa possiamo fare noi? Intanto quello che stiamo facendo, cioè fare quello che non fanno i media ufficiali, informare la popolazione. Perché secondo il mio modesto parere, l'idea di una eventuale soluzione, per quanto remota, intanto è un nostro dovere far sapere quello che succede. Perché è chiaro, intanto permettiamo che io non vado in giro facendomi pagare per quello che faccio, quindi è importante soprattutto questo, ma da parte mia, come di altri attivisti, non è un sistema per fare affari. Per cui, siccome la salute è di tutti, è anche nostra, la prima cosa che mi lascia sconvolto la mattina è alzarmi e trovare già il cielo coperto da scie, per cui la cosa già mi impressionisce per due motivi: primo, perché fa male alla salute; secondo, perché ho sempre la tosse, e se ho la tosse so perché ce l'ho, visto che in tutti questi anni ero sempre stato bene. E terzo, perché chiaramente questo è un problema che riguarda tutti, per cui qualche cosa bisogna fare. Cosa si può fare se i media ufficiali non informano? Fare nel nostro piccolo quello che i media non fanno, cioè anzi i media disinformano. State chiaro alla sigla, allo sfondo del TG1. Lo sfondo del TG1 ha un panorama con delle scie che percorrono tutto il globo, e quella lì è informazione, come si dice, subliminale, no? Quello che è un caso subliminale veramente severo. Prendiamo il programma della Alga de Usagno, non so come si chiama, non mi ricordo. Anche lì, sullo sfondo, dietro agli intervistati, dietro a Usagno, c'è uno sfondo con gli aerei che vanno in tutte le direzioni e che rilasciano delle scie al rallentatore. E quella cos'è? È un altro sistema per abituarvi a pensare che gli aerei che vedete in cielo sono aerei normali, decorativi, qualcosa di simpatico. Tant'è vero che c'è un disinformatore che una volta era un attivista e che è passato dall'altra parte perché lavora in una università e gli hanno consigliato di lasciar perdere, che è diventato un disinformatore, e dice che le scie finite sono simpatiche, che le scie di condensazione sono simpatiche. Per lui non sono più scie chimiche come l'anno scorso, sono diventate scie di condensazione. Ma quel che è peggio è che, per tornare al discorso di prima, i media ufficiali, e quindi la RAI, che è la TV di Stato sulla quale noi paghiamo un canone, non solo non ci informa, ma crea delle scenografie per convincere il nostro cervello che quelle scie che vediamo in cielo sono normali. E questo è diabolico, è aberrante. Per cui noi cosa possiamo fare? Dobbiamo informare, dobbiamo contrastare questa politica di riscrittura della fisica, della storia, della nostra memoria storica. Chi di noi ha più di 40 anni ricorderà che il cielo una volta non era così. Come ce lo spiegano? Ah, sono i cambiamenti climatici. E se così? Cioè, uno scienziato mi dice: non piove perché sono i cambiamenti climatici. L'effetto serra. E che cos'è questo effetto serra? È, per dirla come la direbbe il disinformatore per eccellenza Paolo Attivissimo, è una bufala. Perché una bufala? L'effetto serra è stato inventato per coprire gli effetti delle scie chimiche. Perché le scie chimiche durante il giorno impediscono l'irraggiamento solare e di notte impediscono l'escursione termica dal suolo verso l'alto, perché creano una barriera. Per cui abbiamo una differenza minima di temperatura tra notte e giorno, e questo alla lunga chiaramente crea un aumento delle temperature medie. Arriva. Però a questo punto cosa succede? Che se noi abbiamo effetti di questo tipo, dobbiamo in qualche modo cercare di coordinarci, e per farlo dobbiamo informare più persone possibile in modo tale da sperare che altri si attivino come noi, perché la soluzione, se ci sarà, partirà dal basso, cioè dalla popolazione consapevole. Esistono dei video, dei filmati da cui si può evincere la discontinuità nell'emissione di queste scie chimiche. E poi una domanda che una curiosità. Sì. Chi può avere interesse a non far piovere sulla California per 4 anni, o come ha detto lei in Australia, o questi organismi sovranazionali, come vanno a configurarsi? Saranno pur fatti di persone come noi che possono subire gli stessi danni, spesso si fa riferimento alle multinazionali che onestamente istintivamente non apprezzo, però dico anche le multinazionali sono fatte di esseri umani che prendono delle decisioni sovranazionali. Se le decisioni sono comunque negative, questi esseri umani avranno dei figli, dei nipoti? Questa è una domanda che ci facciamo tutti. Avranno amore per la propria vita? È una domanda che ci facciamo tutti. E d'altronde è la prima domanda che uno si fa, cerco di concentrare la risposta in una spiegazione semplice. Noi sappiamo che dalla fine degli anni 40 a tutto il 1978 in diversi stati ci sono state sperimentazioni nucleari in atmosfera. Nessun scienziato si è mai preoccupato del fatto che l'uranio e le altre sostanze radioattive, elementi radioattivi, avrebbero per i decenni successivi fatto il giro del globo decine di volte e che quindi li avrebbero potenzialmente liberati anche loro dei loro figli. Potenzialmente uno scienziato non guarda mai le conseguenze di quello che sta facendo. Vediamo l'estrude che non si fa problemi per quanto riguarda la proposta che lui 10 anni fa di costruire particolato d'alluminio in atmosfera. Non si li è fatti allora i problemi, non si li sta facendo ora e continua a giustificare le sperimentazioni ARP e chiaramente non le scie chimiche, perché le scie chimiche non sono un fenomeno dichiarato. Sappiamo che per esempio le chemtrails compaiono in un documento ufficiale nel 2001 dove si tentò di far abolire appunto le armi esotiche, ma queste c'erano anche le chemtrails, quindi ovvero le scie chimiche non le abbiamo inventate noi, sono un fenomeno reale. I politici hanno una scarsa consapevolezza di quello che sta succedendo. Quelle poche persone, faccio un esempio banale, se io sono un operaio che lavora in una catena di montaggio e magari nella mia parte di catena di montaggio io devo abitare 2 pulloni o inserire il cruscotto dentro all'alloggiamento della l'argomentazione dentro al cruscotto dell'autoveicolo, chiaramente non so come è stato fatto tutto il resto del veicolo, non ho questa condizione, non vedrò mai il veicolo completo, mai. A meno che non vado alla fine della catena di montaggio e mi vado a vedere come è finita l'auto, perché io non lo so, essendo un operaio della catena di montaggio. Allora questa struttura non è piramidale, ma è labirintica, ovvero sia significa che ognuna di queste persone che ha diversi incarichi ha una capacità di conoscere alcune parti del progetto, ma non il progetto nella sua interezza. E questo è il vantaggio di poter operare in questa maniera. Quindi se prendiamo per esempio un colonnello Giuliacci, che alla meno peggio, con una competenza veramente ridicola, ci spiega che sono scie di condensazione, cosa possiamo pensare di un individuo del genere? Due cose, delle due l'una, o è incompetente o è in malafede. Ma se è in malafede, si è mai preoccupato dei suoi familiari? Evidentemente no. E quindi, siccome anche guarda, certo, ma anche Prodi, anche il fratello di Prodi che è a capo dell'operazione, quindi per quanto riguarda l'Italia, prego. Antonio, la riconosco. Consigliere, la signora di guardare un film molto interessante, The Corporation, perché se uno lo vede ha le risposte alla domanda che io già faccio sulla camera, ma i nostri familiari, i nostri figli. Se uno vede quel film ha l'idea di che cos'è una corporation o multinazionale e capisce che non ci sono più tipi di persone che mi non è il profitto, non è il profitto, dipende da quel profitto, anche se tu sai che stai lavorando c'è benissimo che tutti i ricchi ci sono dopo tutti i disoccupati ci sarà un altro che sta meglio di te, il risultato sarà il debito e tu non avrai più colore. Consiglio di vedere il corpo. c'è un coordinamento a tutto questo? Io capisco le domande. Tutto questo sta tutto da processo. Nel momento in cui c'è il conflitto, tutto questo è secondo me. Conflitto, questa entità astratta, vuol dire che può coordinare no, io sul discorso altro, avevo fatto che un documento di sera del 99 dove dice proprio c'è una commissione europea, quindi non è un è proprio una commissione europea che dice nel 99 che il sistema ARP è un sistema di trasformazione climatica ed è uno delle aree in assenza più dannose per la salute del pianeta della popolazione umana. Esatto. Ora, per il discorso delle onde elettromagnetiche che non si vedono, io chiedo al signor Martinotti, del primo Rosario, è coerente con la spiegazione che nessuno scienziato attualmente abbia sorvegliato che non è giusta, del perché c'è questa moria o perdita, perché si perdono, quegli animali che usano dei sonar naturali, vedi le balene che si spiaggiano, che negli ultimi anni si spiaggia sempre di più, non si dice perché prima no, probabilmente anche lì tra la stessa terra, no? O perché non ci sono più geloati, stanno morendo tutti, esatto. Spariscono, muoiono, non si trovano, si perdono, non ritrovano più la, sì, la via di casa. Le api per una parte muoiono a causa dei neonicotinoidi, che sono degli insetticidi che vengono integrati nelle sementi OGM, soprattutto nel grano turco, e qui viene coltivato spesso con appunto queste sementi geneticamente modificate. E per una parte quindi muoiono a causa di questi neonicotinoidi che appunto attaccano il sistema nervoso delle api, come anche degli uomini logicamente. Però le prime vittime sono sempre quelle più piccole e più delicate. Le api sappiamo che impollinano l'85% delle piante e quindi morte le api, addio piante. Ma le api, è stato dimostrato anche facendo delle analisi delle medesime, contengono al loro interno microparticelle di metallo. E come le hanno assunte queste microparticelle di metallo? Le hanno assunte attraverso l'aria, che anche se le attirano. E quindi è giusto quello che hai detto tu, Antonio. Ti ringrazio e poi magari dopo ci vediamo, vuoi fare due piani. Dimmi. Sì, vorrei fare una domanda riguardo al tuo commento sul CERN. Sì, questo non ci voleva lanciare. Okay. Non voglio mettere, premesso, in discussione il discorso delle scienze chimiche. Sì. Voglio concentrarmi sull'effetto Terra. Sì. Mi fa un attimo pensare il tuo commento perché l'effetto Terra è stato studiato da più di 35 anni, le centinaia di ricercatori indipendenti, sì, l'uno dall'altro, non governativi, non finanziati da corporazioni, sì, e tutti sono giunti alla stessa identica conclusione, e anche i scettici della Terra, l'ultima conferenza che hanno avuto nel 2008, il loro cliente principale ha dovuto concludere che in realtà l'effetto Terra esiste e sono riusciti a dimostrare il difficile collegamento tra il CO2 e il riscaldamento globale del pianeta. Allora, vedo che sei ben accorato. No, perché, attenzione a dire che l'effetto Terra è una balla, una bufala, perché... Allora, la domanda l'hai fatta e ho capito bene qual è il senso e capisco anche questa domanda da dove viene. Però, intanto ti voglio spiegare che per esempio ci sono circa 70 scienziati dissidenti che hanno dichiarato in un documento ufficiale che il rapporto dell'IPCC o IPCC, quindi il rapporto che dichiara uno stretto collegamento tra CO2, cioè diossido di carbonio, maldestramente detta la CO2, invece si dice il CO2, e quindi questo documento dichiara che il rapporto dell'IPCC è basato su pressioni politiche da parte degli americani, degli Stati Uniti. Ed è basato su errori di fondo che ti vado a spiegare in poche parole, perché chiaramente su ogni cosa uno dovrebbe avere dei libri a portata di mano e poter presentare anche la documentazione alla quale si riferisce. Però, in poche parole, ti spiego così. Intanto, nel rapporto dell'IPCC non si tiene conto della variazione delle temperature in determinati anni, cioè viene saltato completamente un periodo storico in modo tale da far combaciare, facciamo come gli organi giudiziari in Italia che fanno combaciare le indagini in relazione a quanto pensano le autorità di indagine, che indagano su un omicidio, pensano che quella persona lì è stata l'assassino, quindi cercano di costruire delle prove in modo tale che combacino con la teoria che dimostri che quello lì sia l'assassino. Quindi non vengono cercate delle prove per trovare un assassino, ma si costruiscono delle prove per farle combaciare con la teoria dell'organo investigativo. Per quanto riguarda i rapporti PCC è la stessa cosa, cioè sono state nascoste tutte quelle che sono le misurazioni che vanno a contraddire il rapporto del PCC. Ti faccio un esempio banale, tu sei giovane, io ricordo negli anni passati che gli scienziati, vi parlo degli anni 70, dichiaravano che l'aumento del CO2 in atmosfera avrebbe creato una nuova era glaciale. Mentre adesso gli scienziati nei rapporti PCC dicono che l'aumento del CO2 provocherà un innalzamento delle temperature. Allora qualcuno si deve mettere d'accordo. Quale delle due è giusta? L'ultima teoria tirata fuori dagli scienziati venduti per il PCC o la teoria di un tempo? Probabilmente nessuna delle due, perché... No, in realtà è stato dimostrato che era la seconda, spiego... No, aspetta. No, attenzione. Scusa, documentazione alla mano, se hai bisogno poi te la faccio avere, però dimmi, insomma. Dobbiamo vedere sempre più raramente uscire. Bravo, bravo, bravo. Bravo, allora aumentano le temperature medie e quindi le C dovrebbero essere di più, giusta la posizione di la notazione di Antonio. È così. Cioè, se aumenta la temperatura, le C di potenza devono essere meno frequenti e non più frequenti. Non solo, non si può spiegare con l'innalzamento delle temperature dovute al biossido di carbonio uno sconvolgimento climatico che generalmente viene spiegato in maniera appunto generalizzata. Cioè, se muoiono le acque e arrivano scienziati e mi dicono sì, è colpa dei cambiamenti climatici, cosa significa? Se muoiono le acque si va a vedere cosa hanno le acque nel loro organismo e si vede che trovi dentro neonicotinoidi e metalli come l'alluminio. Non facciamo confusione. Nessuno ha mai detto che le api sono uccise dai cambiamenti climatici. Le api sono state uccise dall'inquinamento. L'inquinamento generico non è sufficiente. Non è sufficiente, perché l'inquinamento c'è stato adesso come anche 30 anni fa. Sì. Pare che Einstein abbia fatto proprio questa affermazione. Esatto. Nel momento in cui scompariranno tutte le api, dopo 4 anni il genere quindi Einstein, non credo che. Pensi che in Giappone ci sono gli aponi, nel senso che ci sono degli esseri umani che vanno sugli alberi a pollinare le piante perché gli altri sono scomparsi. Pensiamo che c'è una stretta correlazione, dal punto di vista delle zone di azione tra la moria delle api e le zone irrorate. Quindi se abbiamo zone sottoposta all'irrorazione chimica, le api muoiono. Da noi quando è che hanno cominciato a morire le api? L'inquinamento 3 anni fa non c'era. Hanno cominciato a morire da quando sono iniziate a tutto spiano le operazioni di aerosol. Sì. Volevo dire fondamentalmente che va bene l'incremento dell'inquinamento, ma il 40% del planeta in Italia in anno. Esatto. E il 70% negli Stati Uniti. Attenzione, l'imposto euro 3, euro 4, euro 5, però mezzo trovato in un euro 0. È vero, è così. Qua continuano a negare. Se quando negano vuol dire che qualcosa che non va. Sì, mi scusi, però no, bisogna... Allora, guru va, tu sul blog già hai detto quello che dovevi dire, adesso va. No, perché... Prego. Scusi, perché dopo fare un argomento scritto, ma lo scrivi, io poi ti rispondo. Monopolisti, capito? Scusa, ma si prevede una discussione, non. Ma la discussione la puoi fare in un dibattito televisivo, qui non chiamano un dibattito, devono parlare tutti. Sì, però lei prima ha detto come molte persone fanno disinformazione tipo Paolo Attivissimo. Benissimo. Se però lei dà un dato sbagliato, non è sbagliato, non avere la possibilità. Non è un dato sbagliato, io qui non racconto storielle, quindi ci sono i dati che uno può andare a verificare, ci sono più di 70 scienziati che hanno dichiarato che la ricerca, che i rapporti TTC è fatto. Okay, quante, volevo quante solo ricordare che mi sembrava che un parlamentare europeo italiano, sì, mi pare che si chiami Giulietto Chiesa, mi pare, abbia fatto proprio e ne stia parlando costantemente del problema delle scienze. Sì, lui non è impegnatissimo su questo punto di vista perché lui aspetta ancora delle prove provate appunto che provengono da scienziati, diciamo, purtroppo però gli scienziati sono collusi con il sistema, quindi no, però anche lui ha detto la sua, quindi per lui le scienze come altro sono un fenomeno reale. Prima c'era il signore, poi passò. Per dire una cosa su quello che ha detto il signor, io due settimane fa era un dibattito con Giulietto Chiesa, beh, e come spesso accade qualcuno ha fatto una domanda sulle scie chimiche e Giulietto Chiesa ha detto che non ne sa nulla, e ha detto che non è provato, ha detto che non ne sa nulla, questa è la disinformazione, sì, quindi non è vero che quello ha detto lei, pubblicamente dice che non ne sa nulla, stanno presentando hanno zero in un centro. Purtroppo, ha ragione signora, purtroppo ci sono tre categorie di persone. Ci sono quelle che sono attive nel campo della controinformazione, cioè cercare di informare laddove i media non informano, e cercare di correggere le pareti fandonie che vengono dette dai disinformatori, che sono in gran numero pagati per far questo. E poi c'è un terzo tipo di persona che sa ma non vuole esporsi, per cui anziché rispondere sì o no, risponde sì. Nel caso di Giulietto Chiesa, lui in una dichiarazione che ufficiale che ha fatto, che poi è sempre questa che gira da due anni, ha detto appunto che c'è un problema serio, che nel 2001 c'è stata un'interrogazione al Parlamento Europeo, che le scie chimiche sono un fenomeno reale, ma sulle quali lui non vuole esporsi perché al momento non ha dati sufficienti per poterne parlare. Lui aspetta uno studio ufficiale sulle scie e non ci sarà mai, ovviamente. Prego. Okay. Mi chiamo Andrea, tanto volevo fare complimenti a lei, agli attivisti, e sono molto contento che venga qua. Io sono un medico di Verona e devo fare una domanda un po' articolata, anche forse un po' provocatoria. Allora, da quello che lei ci ha spiegato egregiamente, ci sono delle verità oggettivabili, che è l'inquinamento da parte degli aerei e queste emissioni e loro azioni. Allora, la prima domanda è legata a questo, cioè se come per le macchine esiste una regolamentazione sulle emissioni che vengono fatte dagli aerei. L'altra, concludo così molto velocemente, l'altra verità probabilmente è la malafede, che si può interpretare, o più che malafede, questa non risposta da parte delle strutture governative riguardo questo problema. La seconda parte della domanda è riguardo a quello che è il perché viene fatto queste cose qua. E queste sono, da quello che io ho interpretato dalle sue parole, solo ipotesi quelle che lei fa. No, finisco brevemente, non è proprio dopo le lascio per il piacere la risposta. E ci sono sostanzialmente, ho capito, due ipotesi. Una è quella legata agli studi sul clima, e l'altra quella che è legata alle malattie eccetera eccetera che provo. La prima legata al clima mi pone una domanda: visto tutti i problemi climatici che abbiamo in questi periodi, in questi anni, in questi ultimi decenni, se, ammesso che sia vero, se è sbagliato, vorrei un suo commento, se è sbagliato sperimentare sul clima. Questo è un commento, perché diamo per scontato che sia sbagliato, non è detto che sia sbagliato, potrebbe essere una cosa positiva per la razza umana. Prima cosa. La seconda cosa, lascio io fare. Ho detto che sarò un po' provocatore, sono una domanda, una critica propositiva vuole essere. La finisco e poi. Mi fai domande, mi no, solo concludo con le domande, che probabilmente molte delle ipotesi che fa legate alle malattie possono essere vere, molto probabilmente però sono un cofattore più che un certamente l'inquinamento di animale è logico che ha un'incidenza ha un'incidenza sulla, sulla salute, l'inquinamento generalmente ha, è logico. Perché anche l'Alzheimer, per esempio, ti faccio un esempio banale. Ci hanno detto che la benzina che attualmente utilizziamo per gli autoveicoli è meno inquinante di quella di un tempo. La, infatti la chiamano benzina verde. All'inizio hanno cominciato a chiamarla benzina verde, non perché è verde, tanto è vero che il colore della benzina attualmente è rossa, ma perché è ecologica. Eppure non è vero, perché una volta la benzina conteneva il piombo, una sostanza, un elemento altamente cancerogeno che era, essendo molto pesante, si depositava di solito al suolo, sull'asfalto, e poteva inquinare le falde acquifere alla lunga, e quindi comunque era inquinante. Poi hanno inserito il benzene e ci hanno spiegato che la benzina adesso inquina di meno perché c'è il benzene. Non è vero, il benzene è una sostanza, un elemento estremamente volatile ed estremamente, estremamente cancerogeno, che provoca la leucemia specialmente nei bambini, e non è assolutamente non inquinante. Perché hanno additivato il benzene come antidetonante alla benzina? Perché era l'unico componente che non faceva danneggiare le malmicche catalitiche. Allora, detto questo, ci è stata propinata la benzina verde come una benzina meno inquinante, però appunto il benzene è causa della gran parte delle leucemie infantili, perché il benzene è molto volatile e quindi specialmente i bambini che sono piccoli e spesso ad altezza di tubo di scappamento, soprattutto visto che il parco auto non catalizzato è enorme, vengono a inalare queste sostanze di combustione, compreso il benzene totalmente, perché il benzene serve alla benzina per non detonare prima, però nel contempo viene usato per non danneggiare la malmicca catalitica, che serve a portare all'80% in meno l'inquinamento a valle. Ma sappiamo anche che una malmicca catalitica per funzionare deve arrivare a 700 gradi centigradi e per farlo deve circolare per almeno 20 minuti. No, no. Anche di più. No, le ultime generazioni, per me permetta, quel doppio catalizzatore. Col doppio catalizzatore. 2 minuti. Io parlo del parco macchine del quale parlavo prima. Sulle ultime, benissimo, perfetto. Però se io ho un'autovettura non col doppio catalizzatore, o addirittura un'auto senza catalizzatore, ce ne sono tante. La maggior parte degli Euro 3 sono esatto, la maggior parte degli Euro 3 sono con un catalizzatore solo. Per entrare a regime e poter funzionare ha bisogno di 18 minuti. Per cui se vado da casa al lavoro, chiaramente l'inquinante a valle della malizia totale. Detto questo, le malattie neurodegenerative che sono causate da metalli, quali il bario, sono sicuramente da derivare anche alle lavorazioni, perché faccio il caso per esempio del titanio, faccio il caso del bario, che nell'acqua piovana non potrebbe esserci. Io ho delle etichette dell'acqua naturale, che dopo vi faccio vedere, che a loro, sull'etichetta adesso è presente bario, presente il litio e nelle batterie di ultima generazione, però il litio serve anche per quanto riguarda il tipo di lavorazioni che fanno, cioè assieme al bario e all'alluminio viene disperso anche il litio. Perché? Perché il litio è contenuto in nanostrutture, nanotubi cosiddetti, cioè tecnologia nanotecnologica, come dicevo all'inizio, per quanto riguarda la dispersione dei nanosensori, che sono appunto autoalimentati attraverso la luce solare, ma hanno delle microbatterie a base di litio. E quindi troviamo sulle etichette dell'acqua naturale anche il litio, che non si può dire che è presente in ambiente allo stato naturale, tantomeno il bario, a meno che non sono vicino a una cartiera. E poi non mi si può dire che per esempio il bario è diffuso nel terreno, perché noi abbiamo fatto analisi della neve e dell'acqua piovana. Quindi se il bario è presente nelle acque naturali, addirittura scritto sull'etichetta, o nelle analisi che facciamo noi, questo bario deriva dalle erorazioni aeree. Non c'è altra soluzione, anche perché il bario è presente in Canada, in zone desertiche, è presente in Italia, è presente in Giappone, è presente in Francia, in Germania, ovunque, come abbiamo visto nel filmato all'inizio, sono state fatte le analisi, i componenti killer sono sempre l'alluminio, il titanio, il rame, il bario. anche mi sta dicendo il papo di un'altra cosa. Sì. Di quanto sia colpevole di tutto questo è la cinematografia. Sì. Cioè la cinematografia, fin da quando sono piccoli i bambini, perché abbiamo finito due bambini nell'era glaciale, vengono bambini, li ho visti tutti, sì. Cominciano tutti a far vedere i cinematografi. Sì. Quando io ho bambini, i cinematografi, vedevi le nuvolette, è incredibile, si vedono proprio le scie. Sì, questo fanno anche i cartoni per i bambini di 3 anni con le scie finite. Esatto. È un film che dall'inizio alla fine fa vedere questo perché un bambino si abitua a vedere fin da piccolo e poi da grande non fa la domanda. Non dirà che cosa sono quelli, esatto. per forza. Tant'è vero che la stessa NASA, come dicevo prima, finanzia diversi corsi di istruzione per ragazzi, per bambini dai 6 anni fino ai 13 a livello globale, anche in Russia. Qui vediamo la collaborazione che c'è tra tutti, per spiegare ai bambini che quelle scie lì sono scie di fondamentazione. E può completare un attimo la risposta, scusi? Sì, se poi mi sono detto di dimenticare. Che domanda? No, un commento sulla sperimentazione climatica. Ah, e non ci sono prove, non è vero. Perché? No, se sì. Un commento etico, cioè se può essere corretto fare sperimentazione. No, eticamente no. Ti spiego subito perché se noi dispersiamo dei metalli in atmosfera sappiamo che questi metalli li respirano tutti. Eticamente non ha senso. Poi la sperimentazione cosa significa? Il clima, cioè la Terra, ha un equilibrio climatico che è inalterato da mille. Piove, le stagioni, fa del tempo, fa freddo in una zona, fa caldo in un'altra, c'è un ciclo continuo di rimescolamento atmosferico. Ora, perché io devo intervenire, per esempio, su un fronte nuvoloso, interrompendone il suo corso e l'ingresso sul nord Italia per evitare che piova? Quale motivo etico posso avere per impedire che piova sul nord Italia, per esempio? Oppure, visto che le inondazioni sono molto frequenti ultimamente in Puglia, e in Puglia da un po' di tempo non piove, tanto è vero che l'acqua verrà razionata, perché voglio impedire che piova in Puglia? In Puglia già è una zona siccitosa, sulla quale ci sono stati studi negli anni passati per verificare se era possibile far piovere. E qui sono studi ufficiali, ci sono documenti ufficiali che spiegano fin dagli anni 80 sperimentassero nei centri universitari sistemi per produrre pioggia sulla Puglia. Invece adesso cosa si fa? Si fa il contrario, si cerca di impedire che piova nei momenti giusti e si fa magari scaturire un'alluvione proprio al momento in cui il grano deve essere raccolto. Io l'ultima volta che sono stato a Cesena c'era un contadino che era disperato e incavolato come una biglia perché diceva adesso è tutto alluvionato e io cosa me ne faccio di quel grano lì? Che è tutto in una cosa così di fango, non posso raccoglierlo. Perché fanno piovere magari nei momenti sbagliati. Allora questo serve per danneggiare le colture, serve per interessi economici molteplici. Adesso, per esempio, per quanto riguarda il problema delle patologie correlate, c'è una patologia della quale non ho ancora parlato, che dopo magari introduciamo con un breve filmato, che implica una reazione da nanotecnologie, chiamiamola così, che a suo tempo fu spiegata anche dalla dottoressa Gatti, consorte e collega in ambito di lavoro del dottor Montanari, che studia le nanoparticelle. Il problema è che la dottoressa Gatti, come anche il dottor Montanari, ma come anche Giulietto Chiesa in quanto giornalista, non ha il coraggio per affermare che quanto sta accadendo sia realtà, per cui nega il fenomeno a priori senza neanche accertarsi se ci sono dei casi o meno di morbo di Morbillon. Il morbo di Morbillon è una malattia che ha riscosso molto interesse e scalpore negli Stati Uniti e ha cominciato ad avere i suoi casi già da una quindicina d'anni in questa parte e che produce attualmente, ci sono circa 20.000 casi solo negli Stati Uniti di malati di morbo di Morbillon. È una malattia che ha probabilmente una correlazione con una reazione da parte dell'organismo a causa di una aggressione di nanotecnologie. Abbiamo detto, anche io per avere questi dati, per esempio per quanto riguarda la dispersione di nanosensori, ho dovuto acquistare un documento online che se no non era accessibile, il quale spiega che già dal 2003 si facevano dei calcoli matematici da parte dei centri meteo per poter stimare qual era il quantitativo di nanosensori necessari da essere dispersi in atmosfera per poter fare previsioni meteorologiche. Cosa fanno questi nanosensori? Questi nanosensori hanno la possibilità di inviare e ricevere dati e quindi possono dare informazioni sia per quanto riguarda una determinata situazione di un'area cittadina, esempio che vale per tutti. Nel 2003 sono stati utilizzati dai militari questi nanosensori chiamati genericamente smart dust, polvere intelligente, sono stati utilizzati sulle truppe iracheni, sono stati utilizzati anche e quindi sfruttati con aerei sui talebani in Afghanistan, in questo modo, se trovo il documento vi faccio avere anche l'intervista al generale americano che ammetteva questo, per poter studiare i movimenti, controllare i movimenti delle truppe nemiche, perché le truppe nemiche, secondo le stesse ammissioni del generale statunitense, vengono a respirare queste nanostrutture che a questo punto entrano nel loro organismo e trasmettono gli spostamenti delle truppe. Questi nanosensori vengono distribuiti anche sulle aree civili per gli scopi più innumerevoli, ma soprattutto per quanto riguarda le previsioni meteo, perché trasmettono dati sulle condizioni atmosferiche. Il problema è che questi nanosensori, una volta che sono all'interno dell'organismo, sono un agente deleterio per l'organismo stesso. E quindi si palesa una malattia da rigetto fa fuoriuscire dalla pelle, dai bulbi filiferi normalmente delle persone che sono vittime di questo morbo, dei filamenti che adesso se li trovo vi faccio vedere, si riscontrano anche come filamenti di ricaduta. Ci sono degli studi che sono stati fatti da diversi scienziati, tra i quali il dottor Michael Gattel, che è un chimico, la dottoressa Integrante Sanger, che è una tossicologa, e altri medici e scienziati statunitensi, i quali hanno potuto appurare che c'è una stretta correlazione clinico-fisica e strutturale tra i filamenti di ricaduta, quindi quei filamenti che servono da vettore per i nanosensori, perché i nanosensori se no cadrebbero al suolo velocemente. Invece questi nanopolimeri, che hanno la conformazione apparentemente di una tela di ragno, hanno la capacità di essere trasportati in vaste aree dal vento e poi si depositano sulle piante, sulle acque, nei fiumi, finiscono appunto nel ciclo vitale e alimentare. Questi filamenti corrispondono, dicevo, sia chimicamente che strutturalmente ai filamenti che fuoriescono dalle ferite dei malati di Morbillo. È una malattia che provoca prurito, disorientamento, mancanza di memoria, stati di follia, perché chiaramente il prurito è continuo, notte e giorno, e queste persone dal prurito si grattano fino a escoriarsi completamente, dalle ferite del morbo di Morbillo, delle vittime malate in questo modo, fuoriescono una sostanza che ha a che vedere con il silicio, e escono questi filamenti che si è visto contenere al loro interno soprattutto nulla di presente dal punto di vista industriale, cioè non sono fibre tessili efficienti, bruciano a temperature superiori ai 700 gradi centigradi, quindi non sono neanche capelli o tessuti di altro genere, contengono al loro interno carbonio, litio, come dicevo prima, che abbiamo trovato anche nelle acque potabili, nelle acque naturali che vengono in bottiglia, e contengono anche, proprio sulla cuspide, delle particelle di oro. L'oro sappiamo che è un ottimo conduttore. E si è visto che questi filamenti hanno una sorta di vita autonoma, sono in grado di autoalimentarsi attraverso l'energia bioelettrica dell'organismo o attraverso la luce ultravioletta. E qui torniamo al discorso di Edmund, vedete che è una questione complicatissima, perché il coinvolgimento di elementi radioattivi e di alluminio in atmosfera assottiglia lo strato di ozono, e l'assottigliamento e la distruzione dello strato di ozono permette un passaggio superiore di ultravioletti, raggi ultravioletti sulla Terra. Quindi infatti abbiamo avuto un aumento del melanoma, il dottore lo potrà confermare, di oltre il 70% melanoma della pelle, dovuto proprio alla esposizione a raggi ultravioletti, anche se noi non ce ne accorgiamo logicamente perché non li vediamo, però il nostro organismo li subisce, E questi raggi ultravioletti a cosa servono? Perché lo strato di ozono deve essere assottigliato per far passare più raggi ultravioletti? Perché abbiamo visto, lo vediamo anche dagli studi ufficiali che parlano di nanotecnologie e di nanostrutture, vi faccio un esempio, esiste un tipo di giubbotto che è in grado di fare da radio, da essere caldo quando fa freddo, da essere freddo quando fa caldo, esiste una tecnologia della Nokia che permette di, come progetto, come prototipo, di costruire un telefono che cambia forma e che assume il colore della borsetta della persona, della donna che lo possiede. Questa è la nanotecnologia. La nanotecnologia è composta da nanotubi che recentemente si è evidenziato provocano gli stessi problemi, cioè l'asbestosi, dell'amianto. E questi nanotubi, per orientarsi elettricamente, di cosa hanno bisogno? Della luce ultravioletta. Infatti vediamo che questi filamenti, ritrovati, questi filamenti, una volta che vengono esposti a raggi a luce ultravioletta, rispondono visivamente, cioè se io li sottopongo a luce di alte frequenze non si autoilluminano, ma se li sottopongo a luce ultravioletta, e questi sono studi che ha fatto recentemente un altro biologo che era attivista nell'ambito delle scientifiche, questi filamenti che vengono che ricavano dal suolo, che hanno la sembianza di una lamiera, in realtà non hanno nulla di proteinico al loro interno, sono prodotto di nanotecnologia e per poter funzionare hanno bisogno di luce ultravioletta. In tutto torna, nel senso che ogni discorso poi va ad agganciarsi ad un altro. Adesso avete un attimo di pazienza, vi volete spiegare un attimo, due minuti vi trovo le ultime cose che vi danno anche una sensazione visiva di quello che vi ho detto adesso. Grazie. Thank you.